Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Se metto un'anguria nel forno a microonde, cosa succede? Va bene, ne parliamo fra poco. Vedo qui già chi ha il bicocco sorpresa, ne parliamo fra poco. Adesso i titoli e benvenuti e benvenute a Medius. Ci sentiamo fra un secondo. Il comico Natalino Balasso ci chiede come funziona il microonde, ma altri ascoltatori vogliono anche sapere se c'è qualche alimento che viene male cotto al microonde e qualcosa che è pericoloso cuocere. I buchi nelle ossa dei dinosauri ci svelano il loro comportamento. Per interventi chirurgici al cervello, un robot può essere più preciso di un umano. La speranza delle cellule staminali. Un libro racconta il difficile rapporto tra politica e ricerca biomedica negli Stati Uniti. Ma in Italia cosa succede? Senza memoria saremmo persi, ma allo stesso tempo non è affatto affidabile. Le neuroscienze stanno svelando come si formano le false memorie nel nostro cervello. Ecco qua Chiara, vedo che mi guardavi, però scusa, il tema è questo, la domanda. No, magari che qualcuno ha anche provato a farlo, adesso sì. Lo chiediamo al nostro esperto. Sì, sì, sì. Allora, perché partiamo con la domanda, le domande che arrivano. Sì, le domande che arrivano dai nostri ascoltatori, questa volta, come spesso accade, ci arriva da un personaggio abbastanza noto, insomma, un comico, Natalino Balasso, che l'abbiamo incontrato al Salone del Libro di Torino e ci ha chiesto questo. La mia domanda è questa qua: come funziona il microonde? Il tecnico mi ha detto funziona a corrente. Qual è il principio del microonde? Però noi abbiamo ricevuto anche altre domande, sempre sul tema microonde. Inerenti appunto al funzionamento del microonde. E per questo, insomma, chi è che potevamo chiamare se non lui, il nostro esperto? Sì, sì, sì. Cassi, buonasera. Buonasera. Allora, le domande sono, va bene, funzionamento generale, questo lo vediamo, credo, rapidamente, però è anche che cosa viene male per cucinando col forno a microonde. Si può fare tutto? Ci saranno delle cose che vengono una schifezza, non l'anguria, che sappiamo perfettamente che non è il caso di metterla nel forno a microonde. Poi però ci interesserebbe sapere se lei ha fatto anche, come dire, questi esperimenti un po' esplosivi. Sì, perché ci sono degli alimenti un po' pericolosi da cuocere. Infatti. Ma andiamo con ordine. Partiamo forse dal meccanismo. Va bene, come funziona? Come funziona il forno a microonde? È molto simile a un tipo di cottura che avviene con la luce del sole. Non so se sapete che nel deserto i beduini utilizzano la luce del sole per alcuni alimenti. Per cuocere alcuni alimenti? Assolutamente sì. Allora, cosa succede? Che i raggi del sole vengono assorbiti tantissimo dai corpi scuri, per intendersi quelli di colore nero. Vengono riflessi dai corpi bianchi e attraversano i corpi trasparenti. Sì. Il che significa che i corpi scuri si scaldano tanto, quelli bianchi pochissimo, trasparenti pure loro, e però permettono ai raggi del sole di scaldare quelli che si trovano dopo di loro. Le microonde in cosa differiscono dai raggi del sole? Unicamente nella frequenza, o se volete nella lunghezza d'onda, perché hanno una frequenza molto molto inferiore. Questo significa che reagiscono in modo diverso con la materia, ovvero anziché essere assorbiti direttamente sulla superficie hanno una maggiore capacità di penetrazione. Per esempio, nell'acqua, che è in assoluto l'elemento che conosciamo, l'ingrediente gastronomico meglio ancora, che ne assorbe di più, nell'acqua riescono a penetrare a circa 3 centimetri, riscaldando tutto lo strato compreso in questi 3 centimetri. Quindi fondamentalmente le microonde sono un modo di cottura che riesce a scaldare gli alimenti anche in parte all'interno. E questo provoca tutte le differenze dalle cotture tradizionali che conosciamo, perché nelle cotture tradizionali il calore attacca la superficie e poi dalla superficie diffonde lentamente all'interno. Mentre invece le onde riescono a penetrare subito, diciamo. Per esempio i materiali plastici, la ceramica e il vetro le lasciano passare, mentre i metalli le respingono. Ed è un po' per questo il motivo per cui non possiamo mettere pentole e padelle nel forno a microonde, ma i piatti e i contenitori in plastica sì. Allora, i metalli presentano questo problema, che se hanno qualche spigolo vivo fanno scoccare delle scintille e questo può essere pericoloso all'interno di un microonde. Se sono di forme tondeggianti, normalmente non scoccano scintille, ma se volete utilizzare un metallo è sufficiente coprirlo con un materiale isolante, per esempio con della plastica. I metalli respingono le microonde, le riflettono meglio ancora, il che significa che proteggono l'alimento dalla loro azione. Se io avvolgo una parte di alimento in una pellicola d'alluminio e poi ho l'accortezza di inserirla in un recipiente di vetro o di plastica o di avvolgerla a sua volta in una carta di plastica, cosa accade? Che l'alimento coperto dall'alluminio non si scalda, per cui posso creare dei contrasti all'interno della singola preparazione. Cioè posso cuocere una parte di alimento e una parte no. Nello stesso momento, certo. Addirittura posso mettere delle striscioline e creare degli effetti zebrati, abbastanza divertente. Certo. Senta Cassio, però io ho trovato una super cuoca che ha detto che lei fa addirittura la polenta col forno microonde, le viene benissimo. C'è qualcosa invece che non... Anche il pesce, no? Viene molto anche bene. Il pesce lo faccio anch'io, per esempio. Verdure anche. Ma qualcosa che invece viene male dal punto di vista gastronomico, voglio dire. Allora, con le sole microonde non è possibile ottenere la croccantezza esterna e la morbidezza all'interno. Perché non si può ottenere la croccantezza superficiale in un forno microonde? Perché per avere questo effetto bisogna disidratare l'alimento in superficie, evitando che il calore disidrati l'interno. Questo è possibile con dei mezzi di cottura tipo la frittura o la cottura in un forno molto caldo o alla brace. Non è assolutamente possibile con le microonde che penetrano all'interno dell'alimento. Ah beh, quindi c'è una vasta categoria di alimenti, tutte le torte che sono un po' croccanti sopra, non si possono fare bene. No, queste non si possono fare, l'esempio tipico è la pasta al forno. La pasta non si può fare per niente con il forno microonde. Andiamo a mettere. Ah, vedi, allora ecco, è molto più selettivo di quanto pensassi. Senta... E nemmeno il pane, se vogliamo, tanto per citare un'altra preparazione che nel forno convenzionale viene invece benissimo. Sì, perché rimarrebbe molliccio. Certo. Diciamo che cuoce in modo molto uniforme, per cui o è tutto secco o è tutto molle. Certo. E invece ci sono alcuni alimenti invece che è pericoloso cuocere con microonde. Ad esempio, io metto un uovo, potrebbe succedere un patatrac. Ecco, sapete che l'esplosione dell'uovo è legata alla scoperta del forno a microonde, che tutto nacque subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, perché un ingegnere che lavorava accanto ai radar si era accorto che una tavoletta di cioccolato che portava in tasca gli si era sciolta. Nacque così, sì. Ecco, il problema è che facendo altri esperimenti, una volta diede un uovo in mano a un suo collega e l'uovo esplose. Perfetto. Ecco, la stessa cosa che succede con l'uovo può succedere anche per esempio con le patate se non abbiamo l'accortezza di bucare la buccia. Certo, sono casi limite, ma che cosa avviene? Che le microonde penetrano all'interno e riscaldano tantissimo l'acqua contenuta all'interno degli alimenti, che normalmente sono molto umidi. Arrivata a 100 gradi l'acqua evapora, quindi crea uno scompenso di pressione a far esplodere l'involucro esterno. Però questo è un fenomeno che avviene normalmente quando si hanno degli alimenti che contengono acqua e sono chiusi ermeticamente da un involucro esterno. Un altro pericolo abbastanza comune che si verifica col forno a microonde è portare l'acqua al di sopra del punto di ebollizione e poi ritirarla e scaldare inavvertitamente. Allora si avrà una fuoriuscita d'acqua bollente. Ah, pessimo. Ecco, se io scaldo una tazza d'acqua nel forno a microonde E la lascio troppo a lungo, l'acqua può arrivare a superare i 100 gradi senza che si inneschi il fenomeno dell'ebollizione. Perché? Perché stiamo scaldando in modo uniforme, non si crea il contrasto di temperatura fra il sotto e il sopra del recipiente che provoca la risalita delle bolle e arriviamo ad uno stato metastabile, si chiamano così in gergo, che può venire perturbato da un minimo movimento, dall'introduzione di un granellino, che ne so, di zucchero. A questo punto si innesca il fenomeno della formazione delle bolle di vapore e si ha un'ebollizione improvvisa che rischia di ustionare il malcapitato. Sì. Va bene, grazie professore, alla prossima. Niente, arrivederci. Arrivederci, grazie. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Avete mai pensato quale attenzione bisogna mettere, quale precisione necessaria nel mettere le mani dentro le macchine più diverse che noi conosciamo e che noi maneggiamo. Beh, per esempio, insomma, se vi cade un cacciavite dentro un motore dell'automobile mentre si cerca di aggiustare qualcosa, non è un grave danno. Però in altri marchingegni invece bisogna essere molto più precisi. Ma se la macchina in questione è la più complessa che noi abbiamo intorno, anzi che abbiamo addosso, perché sto parlando del corpo umano, quale precisione è necessaria? Stiamo pensando al lavoro di un chirurgo, no? Che mette le mani nel nostro corpo. E se spostiamoci ancora, l'interrogativo diventa ancora più difficile. Se di questo corpo, no, su questo corpo noi stiamo lavorando in una zona molto particolare e singolare che è il cervello, quale precisione è necessaria? Ecco, questo è l'interrogativo che sta al centro dell'argomento che stiamo per trattare, e io lo tratto questa sera con Giancarlo Ferrigno. Buonasera Ferrigno. Buonasera. Docente al Politecnico di Milano presso il Dipartimento di Bioingegneria, e poi lei è anche responsabile in particolare del laboratorio di robotica medica, e infatti stiamo per parlare di un robot, un braccio robotico, e il tutto fa parte di un grosso progetto, no, europeo, Ferrigno. Sì, si tratta del progetto ACTIVE. ACTIVE sta per Active Constraints for Ill-Defined and Volatile Environments, che è un progetto finanziato dalla Commissione Europea nel 7° programma quadro. È un progetto con 15 partner su 6 paesi in Europa, incluso Israele e la Svizzera. Quindi un grosso progetto che sì. È arrivato a costruire un braccio robotico. No, in realtà ACTIVE è partito ad aprile. Abbiamo una pregressa esperienza di un precedente progetto europeo in cui abbiamo costruito un sistema robotico per neurochirurgia, ma ACTIVE, diciamo, è quello che dovrebbe andare oltre questo primo livello. Sì. E l'obiettivo è proprio precisione in particolare, no? L'obiettivo è sia precisione, cosa però che è stata ottenuta già con altri progetti precedenti, che dinamica, quindi compensazione dei movimenti che si possono riscontrare, dei movimenti dei tessuti molli che si possono riscontrare durante l'operazione di neurochirurgia. Ecco, perché penso che saremo tutti pronti, noi non addetti ai lavori, a pensare che il cervello sia qualcosa che sta lì, insomma, piuttosto fermo. Invece non è così quando voi incominciate a lavorarci. No, in realtà non è così, perché il cervello sta fermo fin tanto che fermo relativamente, fin tanto che la scatola cranica è chiusa. Nel momento in cui si opera, si apre la scatola cranica, c'è una fuoriuscita di liquido cefalorachidiano, una diminuzione della pressione intracranica, per cui il cervello cambia fisicamente dimensioni nel lungo termine, ma poi nel breve termine ci sono anche movimenti anche abbastanza ampi dell'ordine di 1-2-3 mm dovuti alla pulsazione, quindi alla pressione arteriosa, alla respirazione, e in determinati tipi di operazione in cui è necessario che il paziente sia cooperante, ce ne sono svariati, possono essere movimenti del paziente, e poi infine durante alcune tecniche chirurgiche in cui è necessario stimolare la corteccia per malparla, ci possono anche essere delle vere e proprie crisi epilettiche. Certo. Ecco, il millimetro di differenza nel cervello è un'enorme differenza. È estremamente, sì, è enorme. Pensa che solo nelle cortecce motorie tutto il corpo viene mappato, tutti i muscoli del corpo vengono mappati in pochi centimetri di corteccia, il millimetro è certamente molto importante. Nel senso che si può creare un trauma forte sbagliando? Si può creare una menomazione permanente al paziente. Il motivo per cui durante le operazioni a volte si continua a verificare che le zone importanti vicine al luogo dell'operazione continuino a funzionare, quindi per esempio con la stimolazione per vedere se il paziente continua a muovere un arto, una mano, le dita e così via. Sì, sì, è una chirurgia completamente diversa dalle altre. E in questo controllo della precisione e del movimento che sta per intervenire il vostro progetto, il vostro braccio robotico? Sì, sì, soprattutto nella compensazione di questi movimenti che il chirurgo generalmente, se opera a mano, riesce a compensare a occhio. Anche se, diciamo, può avere delle difficoltà al microscopio, perché il microscopio invece è un dispositivo fisso che quindi può perdere la zona che sta analizzando se c'è un movimento improvviso della tessuti che ci stanno sotto, mentre per i robot questo invece è un limite, perché se il robot opera nell'ipotesi che tutto sia fermo va a finire nel posto sbagliato, quindi chiaramente può fare più danni che aiutare, quindi diciamo che il passaggio alla compensazione del movimento direi che è la cosa fondamentale, è il futuro della neurochirurgia robotica. Proviamo a spiegarlo un attimo per quanto velocemente, cioè intanto lo strumento chirurgico che interviene sul cervello è gestito dal robot, ovviamente poi è una protesi della mano del chirurgo, però no, il chirurgo in questo caso non ha in mano qualcosa ed è coadiuvato dal robot, è proprio il robot che inserisce gli strumenti per lavorare sulla parte del cervello, è così? Sì e no, nel senso che questo progetto prevede tre diverse modalità di movimento del robot. Il primo è l'approccio autonomo, cioè quando la macchina si deve avvicinare al campo operatorio. Poi c'è la modalità cooperativa in cui lo strumento è nelle mani del chirurgo ma è anche sorretto dal robot, cioè lavorano praticamente mano nella mano. Ah, ho capito. E il robot si occupa di evitare che lo strumento possa andare in regioni pericolose. Questi sono gli active constraints, quindi vincoli attivi di cui le parlavo prima. Sì. E la terza modalità invece è quella un po' più nota della teleoperazione, quindi il chirurgo remotamente, che può essere accanto al lettino, ma potrebbe anche essere in un'altra stanza, opera su un'interfaccia meccanica e il robot replica i movimenti, le operazioni, restituendo tra l'altro la forza sentita dallo strumento durante la procedura. Che questa è una cosa molto importante, no? Nella robotica, sì, la possibilità di dare la sensazione nella mano di quello che si tocca, certo. Qualcuno ha anche dimostrato che il risultato della procedura è migliore se il chirurgo riesce ad avere la retrazione cosiddetta aptica, la retrazione di forza sulla mano. E diciamo che l'innovazione su quest'ultimo metodo di lavoro, che esiste, cioè c'è qualcosa che esiste già nel noto, per esempio il famoso Da Vinci, la novità qui è che anche se la scena operatoria si muove, il chirurgo la vede ferma. Ah. Perché il sistema che compensa. Questi movimenti, esatto. E quindi lei diceva giustamente, questa cosa si avvia ad essere una rivoluzione in tutto quello che è la chirurgia del cervello. A che punto siamo? Cioè, quando pensate, anche se la ricerca non può darsi troppi limiti, quando pensate che potrà arrivare in porto questo progetto? Dunque, il progetto è un progetto di 4 anni, è un integrated project abbastanza grosso, quindi è un limite temporale un po' più lungo degli altri che solitamente sono triennali. È appena cominciato, quindi ci aspettiamo la validazione su animale per il 2015. Quindi insomma non è lontano, è un orizzonte abbastanza vicino. No, diciamo che poi con quello non è finito tutto, nel senso che c'è tutta la fase di certificazione, che per un sistema di questo tipo che presenta delle... La capacità di decisione autonome non sarà facilissima, però diciamo, non è tra 20 anni. Sì. Diciamo, magari spieghiamo. Temporale 5-6 anni. Certo. Spieghiamo un po' in conclusione, poi ci salutiamo i nostri ascoltatori. L'abbiamo già affrontato altre volte in trasmissione. L'introduzione di strumentazione tecnico-scientifica, soprattutto nelle cose che riguardano la salute umana, è un problema che sta emergendo, perché certo, se abbiamo delle macchine che in qualche modo hanno una loro autonomia nel gestire dei momenti chirurgici, per esempio, beh, insomma, bisogna che la legislazione si adegui, perché lì chi è che sbaglia? Insomma, è un problema complesso che deve gestire delle grandi potenzialità, però insomma andrà risolto, è questo che lei intendeva con certificazione, sì, no? Sì, certo, esatto, questo esatto. È il problema. Diciamo che lì c'è da fare tutta una serie di analisi dei rischi, cioè cosa potrebbe mai accadere fidandosi del sistema, e una volta trovate le possibili soluzioni ai problemi che possono accadere, il sistema può essere certificato. Certo. Però diciamo non è banale, appunto, perché come diceva lei, si tratta di capire di chi è la colpa. A oggi, con tutti i dispositivi attualmente disponibili, la colpa alla fine diciamo è sempre del medico, cioè il medico che prende la decisione finale. Nel momento in cui c'è un movimento autonomo, allora comincia a esserci un concorso e bisogna capire. La legislazione deve sistemare le cose, certo. Giancarlo Ferrigno, grazie, buonasera e auguri per la ricerca, e ci dirà come va a finire. Grazie a lei, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Alberto Liotti è qua con me, ciao Alberto. Ciao Federico, buonasera a tutti. Periodicamente arrivano le staminali, quando sì. meno te l'aspetti, ma ti arrivano dentro in onda, perché è impossibile non parlarne. Come mai ne parliamo? Ne parliamo perché è uscita qualche tempo fa una recensione di un libro americano che si chiama La speranza delle cellule staminali, Stem Cell Hope, se ho pronunciato bene, recensione che ha scritto Gilberto Corbellini, che è docente di storia della medicina e bioetica alla Sapienza di Roma. E che è qui con noi stasera. E che è qui con noi. Buonasera Corbellini. Buonasera. Allora, è uscita sul, si dice sempre l'autorevole Nature, ma è verissimo, perché è vero, è vero. È una rivista di grande autorevolezza, e lei ha scritto questa recensione del libro. Cosa ci può dire all'inizio di questo testo? Ma è un'inchiesta giornalistica, quindi è qualcosa, diciamo, che dovrebbe anche essere guardato e studiato come esempio di un lavoro di indagine, diciamo, che i giornalisti possono e sono forse quelli più capaci di fare in questo momento, a cavallo, diciamo, tra storia e attualità, perché di fatto, benché il titolo del libro sia La speranza delle staminali, come la medicina delle staminali cambia la nostra vita, in realtà è un'inchiesta su quello che è successo negli ultimi 15 anni negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti a metà degli anni 90 fu vietata la ricerca sugli embrioni, quindi fu vietato di lavorare sulle staminali embrionali, e tutto questo è andato avanti fino al 2009, quando Obama, che fece anche una campagna, insomma, ricordiamo, si pronunciò Nancy Reagan, fece anche una campagna elettorale in cui disse che se avesse vinto avrebbe consentito la ricerca sulle staminali embrionali, e infatti nel 2009 ha firmato un ordine esecutivo che ha consentito questa ricerca. E quindi il libro ricostruisce, attraverso interviste con i protagonisti, diciamo, della ricerca cellulare, della ricerca, diciamo, che ha riguardato le staminali negli Stati Uniti, ricostruisce questi 15 anni e fa vedere bene le frustrazioni che gli scienziati americani avevano per tutto quello che accadeva nel resto del mondo, soprattutto nei paesi dove invece le legislazioni aprivano a questo tipo di ricerca. Non il nostro, però, o sbaglio? Tra cui non il nostro, ovviamente. Noi, noi siamo un paese abbastanza strano, insomma, poi soprattutto nelle legislazioni in materia, per così dire, di bioetica andiamo esattamente nella direzione contraria di dove si muovono, diciamo, i paesi non solo scientificamente più avanzati, insomma, che hanno una visione più aperta, liberale, e che guardano soprattutto alle possibili ricadute per il bene di tutti i cittadini di certi tipi di ricerca. Noi abbiamo la legge 40 che sostanzialmente vieta qualsiasi ricerca su embrioni, e quindi anche a meno di quelle, diciamo, che potrebbero guarire gli embrioni, ma comunque su qualsiasi ricerca che abbia come conseguenza la distruzione di embrioni, e vieta quindi anche la ricerca, la derivazione di cellule staminali, la ricerca su staminali, ma non la ricerca su staminali embrionali che possono essere ottenute da altri ricercatori che le derivano in paesi dove questo è possibile. Quindi c'è anche una contraddizione? Ma no, non è una contraddizione, diciamo, ci sono altri paesi che hanno fatto questa scelta, probabilmente poi si sono accorti tardi di essersi dimenticato di questo pezzettino, e infatti all'inizio di questa legislatura c'è stato qualcuno, anzi alla fine della scorsa legislatura c'era qualcuno che voleva introdurre una legge che vietasse anche questo tipo di ricerca, ma poi non è mai stata fatta. Però ricordiamo che in Italia c'è un contenzioso tra alcune ricercatrici, in particolare, insomma, tra il gruppo di Elena Cattaneo e altre due ricercatrici, che hanno fatto un ricorso contro il Ministero della Salute perché aveva fatto un bando di finanziamento della ricerca sulle staminali in generale, e in questo bando, benché inizialmente, diciamo, la ricerca doveva, secondo gli esperti che l'avevano concepito, essere aperta a tutte le staminali, poi a livello politico è stata inserita una piccola clausola in cui si finanziano tutta la ricerca sulle staminali staminali, tranne che le staminali embrionali, che di fatto è una clausola incostituzionale, perché in Italia non c'è una legge che vieti questo, e quindi c'è questo ricorso, per cui abbiamo anche questa storia in Italia. Insomma, il problema è quando le scelte della politica in campo scientifico non si basano su motivazioni prettamente scientifiche. Questo è un problema della politica, perché poi la politica deve raccogliere il consenso. Molto spesso il consenso viene anche da posizioni che possono essere sia istituzioni che fanno pressione, come la Chiesa Cattolica, oppure posizioni che sono diffuse nella società. Negli Stati Uniti, ovviamente, se noi pensiamo che negli Stati Uniti fino sostanzialmente agli anni 80 la ricerca su embrioni si è fatta, ma si è fatta in tutto il mondo, cioè questa è una cosa abbastanza interessante. Insomma, l'embrione diventa un problema etico-politico, e quindi diventa un problema su cui andare a normare soltanto dopo la nascita di Louis Brown nel 1978, cioè dopo la prima nascita di una bambina in provetta. A quel punto i politici si accorgono, i politici e anche alcune realtà culturali nelle società occidentali, soprattutto quelle religiose, si accorgono di avere un ulteriore strumento di propaganda, quindi tutti i movimenti pro-life negli Stati Uniti partono per allargare la loro battaglia, per esempio contro la legalizzazione sull'aborto, e tirano dentro anche a quel punto gli embrioni, e da lì diventa una tematica su cui si va a discutere su un piano etico, su un piano politico, e in quel momento la politica comincia a interferire e a imporre regole che non sono tanto basate appunto su fatti o su un'analisi di fatti, ma soprattutto su pregiudizi o convinzioni o credenze di carattere ideologico o convenienze. Ecco, che credo che però, non so se lei Corbinini è d'accordo, il problema non è tanto il fatto che a un certo momento la politica entri in questo dibattito anche introducendo parametri che non sono strettamente scientifici, il problema è come tutta questa roba si fa, perché immediatamente è oggetto di schieramenti, di atteggiamenti che non hanno niente a che vedere con un uso attento delle informazioni e un'analisi pacata di come stanno le cose. È qui il problema, no? Sì, io credo che il problema sia questo, e poi sia soprattutto, a mio parere, la manipolazione dell'informazione scientifica. Insieme a Elena Cattano abbiamo scritto un articolo su Embo Report, che abbiamo intitolato, che è una rivista che pubblica la European Molecular Biology Organization, insomma, quindi, in cui l'abbiamo intitolato La scienza sotto la politica, un incubo italiano. Cioè abbiamo fatto vedere che in Italia, cioè che il problema è, l'Italia è un esempio da questo punto di vista, non è tanto che si faccia una legislazione che vieta un certo tipo di ricerca, è tutto legittimo, siamo una democrazia, vogliamo vietare la fecondazione assistita, la fecondazione in vitro, va bene, cioè se lo mettiamo ai voti eccetera, basta. Il problema è se questo tipo di divieto si cerca di giustificarlo e motivarlo scientificamente, e qui salta tutto, manipolando quello che la scienza dice, perché a quel punto, siccome oggi nessuno può dire ai cittadini che guardano la televisione, vedono Super Quark e che leggono e che sentono un sacco di, leggono sui giornali quotidianamente, ascoltano Möbius, medica, non si può più dire noi vietiamo la ricerca sugli embrioni, che gli embrioni hanno l'anima. Si dice vietiamo la ricerca sugli embrioni perché abbiamo delle altre cellule che sono molto meglio degli embrioni, la scienza ha dimostrato che sono molto meglio, ma questo non è vero. No, certo. E questa è l'alterazione, è problema, che esatto. cambia tutto. Ma perché non c'è effettivamente, lasciatemelo dire, insomma, un po' oggi il coraggio di sostenere alcune posizioni con argomenti di tipo filosofico-metafisico, perché l'opinione pubblica questi argomenti non li riesce o non li può o non li accetta più. E quindi bisogna ricorrere alla scienza, ma questa è una cosa tipica, persino negli Stati Uniti sotto Bush, la manipolazione della scienza è stata fatta, e qui nasce un altro problema, il problema degli scienziati che si prestano a queste manipolazioni, perché non è il politico poi che dice le cose stanno così, il scienziato X ha detto che le staminali adulte sono meglio delle embrionali, quindi appunto Wilmut ha detto che le IPS risolvono il problema dell'embrionale, allora adesso buttiamo a mare la ricerca sull'embrionale. Ma Wilmot non ha mai detto questo. Mm. Certo, certo. Corbellini, la salutiamo, credo che andremo avanti molto prima di risolvere questa cosa. Molto, beh, insomma, credo che sia il problema dei rapporti tra scienza e società nei prossimi decenni. Beh. Certo, credo. Grazie, buon lavoro. Buonasera. Grazie, buonasera. Vi segnalo un tema che è trattato sull'ultimo numero di Newton, il mensile di scienza con il quale Moebius sta collaborando da un po' di tempo, e penso che per molti potrebbe essere la fine di un grande immaginario. Mi riferisco al candore, alle sottili ombre, a quelle velature in bianco e nero che da sempre siamo abituati a vedere sulle statue greche, sulle grandi composizioni scultoree che occupano i timpani dei templi o i basamenti dei grandi altari che in quell'epoca erano eretti, come quello di Pergamo, per esempio, che è testimonianza ineludibile per chiunque giunga in visita a Berlino. Perché la fine di un grande immaginario? Ebbene, la cosa si sapeva da molto tempo, in realtà, solo che negli ultimi anni un gruppo di ricerca tedesco, guidato dall'archeologo Vincent Brinkmann, ha ottenuto risultati direi strepitosi nel ricostruire la realtà. Quelle sculture erano tutte colorate. Ma quando si dice colorate, vuol dire colorate. Mettiamola giù francamente. L'impressione è quella di trovarsi davanti a dei personaggi di Walt Disney. Il fatto è che non c'è scampo. La ricerca ha utilizzato tecnologie molto avanzate, con un lavoro estremamente meticoloso, capace di analizzare piccolissimi frammenti di colore rimasti sulla superficie delle statue, e il risultato è lì da vedere. Risultato che però è anche molto interessante dal punto di vista storico. Attenzione, perché molti particolari di queste ricostruzioni ci restituiscono forme e colori di molti indumenti, e poi si apre una diversa percezione di quel mondo. Per i greci, i complessi scultorei, ma anche le singole statue, quelle delle divinità, per esempio, erano strumenti di comunicazione sociale di estrema importanza, e quindi confrontarsi con forti espressioni del viso, per esempio, al posto di atteggiamenti ieratici, beh, insomma, ci spinge a rileggere un passato, fra l'altro, tanto importante per la nostra cultura. Moebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Osso buco di dinosauro. Ma chissà, forse era buono, ma chi può più mangiarlo? Vediamo cosa mi racconta Paola Rebusco. Ciao Paola. Ciao Federico, ciao a tutti. Sempre da Boston. Allora, cos'è questa storia dei buchi nelle ossa dei dinosauri? Adesso ti racconto. Allora, quando pensiamo ai dinosauri, pensiamo a dei grossi lucertoloni, degli animali a sangue freddo, relativamente lenti. Eppure, forse, non è così. Infatti ci sono numerosi studi che indicano che la temperatura corporea dei dinosauri sia alta, comparabile a quella dei mammiferi, e questi studi si basano su dei buchi nelle ossa dei dinosauri. Ecco, ma è questo che mi sorprende un po', perché certo la temperatura è qualcosa di estremamente legato al fatto che l'animale ci sia. Qui sono passati 65 milioni di anni, cioè è dai buchi che si riesce a risalire a una temperatura corporea. Due gruppi di ricerca hanno usato due metodi distinti con gli stessi risultati. Un gruppo dell'Università di Adelaide in Australia ha misurato la dimensione dei buchi nelle ossa fossili, che sembra essere legata al metabolismo, mentre un gruppo statunitense, californiano, ha analizzato la composizione chimica dei denti fossili dei dinosauri. Ah, dei denti, ok. Dei denti. Cosa viene fuori? Allora, ti racconto un po' meglio come funzionano i buchi, perché il sebo di tutti gli animali, dagli uccelli alle lucertole, agli uomini, ai dinosauri, ha un buchino laterale, tramite cui l'arteria femorale fornisce ossigeno per le cellule dell'osso e sangue. Ah, tutti i femori hanno un buchino, va bene, ok. Sì, tutti i femori hanno un buchino. E il professor Roger Seymour e i collaboratori hanno pensato che le dimensioni di questo forellino fossero legate al livello di attività dell'animale. Gli animali più lenti avrebbero un foro più piccolo, quelli più attivi, più veloci, un foro più grande per lasciare passare più sangue e ossigeno. E certo, perché l'attività vuol dire scambio, vuol dire irrorazione, certo. Ok. Ecco, ora, questa era l'ipotesi ed è stata verificata misurando il buco nei femori di mammiferi e rettili australiani viventi e nei fossili di dinosauri, per cui hanno un campione che spazia da topi, elefanti, serpenti, coccodrilli a 10 specie diversi di dinosauri, fossili chiaramente. Quindi dopo aver scalato le misure tenendo conto delle dimensioni, perché chiaramente ci si aspetta che un topolino abbia un buco più piccolo di un elefante, dopo aver scalato corretto per questo, hanno verificato che i mammiferi hanno dei buchi circa 10 volte più grandi in diametro rispetto ai rettili e i dinosauri avevano dei buchi ancora più grandi dei mammiferi, per cui dovrebbero essere dei stati animali attivi. E forse a sangue caldo. Perché, va bene, più grandi dei rettili attuali, però tu dici avrebbero dovuto collocarsi in mezzo magari tra i rettili e i mammiferi e invece ce l'hanno più grandi di tutti. Esatto, non bisogna però giungere a conclusioni affrettate perché c'è un'eccezione presente. Il varano australiano, che è un animale a sangue freddo, ha un buco femorale relativamente grande, comparabile con quello dei mammiferi, però ha anche un metabolismo attivo. Era possibile che i dinosauri avessero una struttura analoga, che fossero animali a sangue freddo ma con un metabolismo attivo. Sì, il varano, per chi magari non l'ha presente, è un lucertolone ma appunto di dimensioni notevoli, arriva sui 2,5 metri, quindi è un quasi dinosauro. Beh, forse sto un po' esagerando, però comunque è un rettile grosso. Senti, mi dicevi anche che quelli del Californian Institute hanno lavorato sui denti. Sì, quelli, Robert Eagle di Caltech ha analizzato il numero di legami tra due elementi, il carbonio 13 e l'ossigeno 18, all'interno di un minerale trovato nei denti dei dinosauri. Questo minerale si chiama bioapatite. E il numero di legami tra questi due isotopi, tra questi due elementi, è correlato alla temperatura dell'animale. Quindi facendo questa analisi hanno anche loro concluso che i dinosauri avevano una temperatura corporea effettivamente più alta di quanto si pensasse anni fa. Quindi insomma, in conclusione, dovremmo arrivare ad avere prove sempre più concrete che erano animali a sangue caldo. È probabile, molto probabile. Sì, rimane da capire, e questa è una sfida ancora più grande, se i dinosauri fossero in grado, così come i mammiferi e gli animali a sangue caldo, di mantenere questa temperatura corporea indipendentemente dalle condizioni ambientali. Certo, e questo per il momento è un mistero. È un mistero, ci vorrà qualche nuovo studio ingegnoso. Grazie Paola per questi buchi negli ossa dei dinosauri. Possono fare anche dei flauti, magari. Ciao Paola! Ciao, alla prossima! Ciao, ciao! Ma siete proprio sicuri che ricordare qualcosa sia proprio ricordare qualcosa? Ascoltate Barbara Galavotti. Per tutta la vita costruiamo noi stessi basandoci sulle nostre esperienze e soprattutto su ciò che ci ricordiamo di esse. Insomma, senza memoria saremmo persi. Però costruire sulla memoria non vuol dire affatto costruire su qualcosa di solido. È quasi come edificare una casa galleggiante, appoggiata su una sostanza fluida e mutevole. E infatti le memorie non sono per niente fedeli. Anzi, le neuroscienze stanno sempre di più scoprendo quanto possano essere infide. L'ultimo studio al proposito è stato condotto da un gruppo di ricercatori del Weizmann Institute in Israele e dello University College di Londra. Ne parliamo con Pier Giorgio Strata, neuroscienziato all'Università di Torino, che nella sua carriera si è molto occupato anche di memoria. Buonasera. Buonasera. Intanto ci racconta lo studio che è stato appena pubblicato sulla rivista Science. Sì, un bellissimo studio che è appena uscito su questa prestigiosa rivista, dove si è proprio voluto analizzare la possibilità di come si formano le false memorie nel nostro cervello. Il esperimento consiste in questo: si prendono 5 persone e si mettono a guardare un filmato ad esempio poliziesco, poi 3 giorni dopo ciascuna persona viene interrogata per vedere che cosa si ricorda di quel filmato e le persone danno determinate risposte che possono essere giuste o non giuste. Poi si fa passare ancora qualche giorno, le persone vengono di nuovo intervistate e vengono messe nella macchina che guarda il cervello, la famosa risonanza magnetica funzionale. E di nuovo gli si chiede, si fanno le domande per vedere che cosa ricordano. Però in questa seduta all'individuo viene anche detto che cosa pensavano gli altri 4 che erano presenti, per cui ciascuno sa di essere è influenzato dalla risposta degli altri. Bene, nel 70% dei casi, delle domande, le persone che hanno dato una risposta, visto che gli altri quattro avevano dato una risposta contraria, si convincono che di aver sbagliato e quindi cambiano la loro memoria. Ecco, magari questa... qualche giorno queste persone vengono di nuovo interrogate, ma mentre danno queste risposte corrette gli si dice: guarda che l'altro giorno noi facevamo un esperimento e ti abbiamo imbrogliato, perché in realtà le risposte che noi ti abbiamo detto non erano date da quelle persone ma da un computer, quindi non erano, quindi tu devi ritornare alla tua memoria iniziale. Bene, il 50% delle persone non riesce più a ricordare la prima verità, perché ormai la loro memoria è stata contaminata e sono perfettamente convinti che c'è un secondo imbroglio, ma che la verità è quella sbagliata. Quindi insomma basta dirgli che gli altri pensano in un modo diverso per influenzare in qualche modo quello che loro ricordano. In maniera irreversibile, perché ormai quelli, almeno il 50%, rimane convinto che la memoria vera in realtà è quella falsa. I ricercatori hanno parlato di pressione sociale che influenza quello che ricordiamo. Certo, ma questo potrebbe avere un risvolto sociale positivo nell'evoluzione, nel fatto di essere il gruppo, la società è stata fondamentale per la sopravvivenza. Avere nel gruppo di cui hai fiducia qualcuno che ti dice: guarda che hai sbagliato, in realtà le cose sono diverse, dimostra una plasticità del cervello adattativa, per cui se per esempio io ho bisogno di cibo e qualcuno mi dice: guarda che il cibo non è lì ma è là, io gli credo, e questo è importante che io cambi la memoria. È chiaro che in un esperimento con la falsificazione è diverso, ma dal punto di vista della sopravvivenza può essere utile avere una plasticità e cambiare opinione. Ecco, la cosa che un po' inquieta è il fatto che queste persone che cambiano opinione poi rimangono assolutamente convinte di aver visto una cosa che non hanno visto e lo sono in buona fede. Esatto, in buona fede, giurando che è così. La cosa interessante è che durante, quando erano dentro questa macchina, si è visto che queste false memorie si formano per l'attivazione non solo del centro della memoria classico che è l'ippocampo, ma da un'interazione dell'ippocampo con una struttura che si chiama amigdala, che è una struttura che è a base delle emozioni e della socializzazione. Quindi il fatto di essere in gruppo, il fatto di essere assieme ad altre persone coinvolge non soltanto la memoria dell'ippocampo ma anche questa amigdala. Ecco, visto che stiamo entrando nella struttura fine in qualche modo del nostro cervello, lei ha appena pubblicato uno studio su Nature nel quale si mettono in luce alcuni meccanismi di formazione dei ricordi che coinvolgono ancora una volta questa struttura che si chiama l'ippocampo e anche il cosiddetto cervelletto. Questo studio, la grossa novità di questo studio è che abbiamo fotografato, uno studio in collaborazione italo-svizzera, abbiamo fotografato praticamente la formazione già dopo poche ore di nuovi contatti sinaptici, soprattutto... Comparti sinaptici, le sinapsi sono proprio le strutture che permettono la comunicazione fra le nostre cellule del cervello. Esatto. C'è un cambiamento strutturale dell'architettura di quella zona interessata alla memorizzazione che nel trasferimento della memoria a breve termine alla memoria a lungo termine seleziona quello che è interessante da utilizzare a lungo termine tralasciando il resto. E abbiamo fotografato delle sinapsi inibitorie che cercano di cancellare il superfluo e selezionare quello che è giusto. Ma a che punto siamo nei nostri studi sulla memoria? Stiamo veramente cominciando a capire come funziona? Cosa ci manca? Purtroppo manca ancora molto, perché stiamo sempre andando più verso la comprensione dei meccanismi molecolari e cellulari coinvolti in questi processi di memorizzazione, mentre fino a 10-20 anni fa la memoria ancora sembrava quasi essere un'entità metafisica. Oggi sappiamo che sono basi strutturali fortissime. Ma si tiene conto, per esempio, nelle aule dei tribunali di questa nostra, come dire, debolezza mnemonica? Certo, questo è un argomento che è sorto all'improvviso negli anni 90 del secolo scorso, quando ci si accorge che in tribunale c'erano delle situazioni molto dubbie sulla testimonianza di persone, e si è dimostrato molto bene che è facilissimo indurre delle false memorie nei testimoni oculari. E questo la magistratura italiana e anche in Italia si dovrebbe introdurre e far capire che quando si cerca la verità da un testimone ci si deve comportare come uno scienziato nel laboratorio che cerca la verità e non la verità che vuole il pubblico ministero o chi interroga, per cui se una persona dice una cosa non bisogna assolutamente cercare di forzarla nell'altra, e questo succede purtroppo molto spesso con gravi danni per persone che potrebbero anche non essere colpevoli. Lei fra l'altro ha fatto il consulente a processi famosi. Sì, io avevo già scritto negli anni 90 un articolo senza essere coinvolto in nessun processo su questo pericolo a proposito del caso Marta Russo, dove naturalmente la madre della testimone Maria Chiara Lutteri aveva negato in tutti i modi che ci fosse qualcuno in quella famosa stanza da cui è partito il colpo mortale, e poi nell'arco di 3 mesi, 6 mesi ha ricordato tutto con l'aiuto ovviamente di chi lo interrogava. Quello che dispiace è che ci sono delle persone in televisione, nel salotto di Vespa, pubblici ministeri, almeno 2 volte ha detto testualmente, nel processo Marta Russo ad esempio la memoria è emersa dopo 6 mesi, come se la memoria fosse una fotografia che sta nel cuore, nel cervello o chissà dove, e uno la tira fuori all'improvviso perché non riusciva a tirarla fuori. Questo è assolutamente errato, perché la memoria è un processo ricostruttivo dove noi, sulla base di varie informazioni, anche leggendo i giornali, chiacchierando, possiamo modificarla, e dopo 6 mesi di originale ci può essere assolutamente nulla. Quindi noi non recuperiamo una foto, ma piuttosto rifacciamo un disegno in qualche modo. Esatto, noi ricostruiamo, la memoria è un processo ricostruttivo, è un processo che partendo da determinati elementi di base si arricchisce, e addirittura nel 27%, gli studi dimostrano che nel 27% delle persone sperimentalmente è possibile indurre delle false memorie, cioè si raccontano delle storie non esistenti, e nel 27% delle persone queste poi credono che le cose siano veramente avvenute e giurano che era così, anzi si arrabbiano se gli dici che era un esperimento. Grazie Pier Giorgio Strata, buonasera. Buonasera. Oh, questa era la prima trasmissione di settembre. Vacanze in larga parte finite, inizia un nuovo anno, perché inizia qui, lo sappiamo, e non a gennaio. E in questo nuovo anno 60 minuti saranno sempre 60 minuti. Quindi il nostro tempo è scaduto. Per le prossime storie di scienza ci sentiamo fra 7 giorni. Buona serata a tutti e a tutte.